la settimana più o meno come l'abbiamo chiusa. C'è una discreta incertezza su quello che succederà nelle prossime ore. Renzi uscirà dalla maggioranza o lo faranno uscire? Conte troverà altri in Parlamento che lo sostengano? Si andrà al voto? Con che tempi? La navigazione continua ad essere incerta, mentre l'Europa si dibatte in qualcosa che assomiglia sempre di più a una consistente flessione dell'economia, con l'Italia come sempre in coda al gruppo. E come se non bastasse, c'è l'effetto coronavirus, anche questo dagli esiti incerti. Sanitari con gli ormai 70.000 contagiati, economici con il rischio che la crescita cinese rallenti corposamente, politici con la scoperta che il presidente cinese sapeva almeno dal 7 gennaio e l'allarme è scattato molto dopo. Per le chiacchiere da bar, beh, insomma, oggi poco da dire, se non questa Lazio che supera l'Inter, seconda in classifica e inizia a crederci. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, buon lunedì 17 febbraio, le 6:31 minuti e 42 secondi. Vi aspetto come sempre al 349-238-6666. Gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, la vostra voce, forza, eh. Per quanto assonnata sia a quest'ora, fatecela sentire. Siamo come sempre in diretta su Facebook. Ci trovate su Twitter, su Instagram e su Instagram. Come sempre mandateci un po' le foto di quello che vedete alla vostra finestra, al vostro finestrino in questa mattina. Se la foto la fate al finestrino, mi raccomando, fermatevi. Fermatevi. Per questo racconto collettivo degli ascoltatori di Radio 24 e del loro risveglio. Allora, da cosa iniziamo? Beh, insomma, la situazione politica, come vi dicevo, ferma, siamo fermi là a come eravamo venerdì, salvo qualche dichiarazione in più. Goffredo Bettini, che è un uomo molto potente all'interno del Partito Democratico, gran consigliere di Zingaretti, che dice, beh, insomma, questo Renzi cacciamolo via dalla maggioranza, prendiamoci qualcun altro. E però dall'altra parte i 5 Stelle che dicono no, perché questa storia dei responsabili, tirar dentro gli scilipò, il modello scilipoti Razzi, per intenderci. O qualcuno di Forza Italia addirittura non sia mai. Riappare Verdini dalle pagine dei giornali, figurati, per i 5 Stelle è criptonite. Mentre siamo qua che con insomma, un po' di cosette da mettere a punto, io lo ricordo sempre, lo ricorderò tutte le mattine, o quasi tutte le mattine, siamo in ballo con Ilva, siamo in ballo con Alitalia, siamo in ballo con Air Italy. E tutti gli altri dossier. Ieri il Sole 24 Ore aveva due pagine piene di cose a proposito delle nostre strade, autostrade, della condizione nella quale versano, dei problemi dell'alta velocità da realizzare. Se riusciamo a uscire da questo clima di chiacchiera è meglio. Iniziamo da una cosa un po' diversa. Va, Carmelo Lauricella, preparami un po' questo Salvini sull'aborto che ha fatto un po' discutere ieri anche sui social. Facciamolo sentire se c'è. Via. Mi hanno segnalato, e noi stiamo approfondendo, delle infermiere e delle dottoresse di pronto soccorso che alcune donne, né di Roma né di Milano, si sono presentate per la sesta volta per un'interruzione di gravidanza. Ora io non entro nel merito in scelte che competono solo alla donna. Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale o di etica a chiunque ed è giusto che sia la donna a scegliere per se stessa e per la sua vita, però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita evidentemente incivile per il 2020. Incivile per il 2020. Allora, ovviamente questa cosa ha scatenato un mega dibattito, soprattutto sui social, insomma, molta rabbia anche. Vi invito a tener presente il meccanismo di comunicazione che c'è dietro. Lo facciamo sempre con Salvini, ma non solamente con Salvini. Quando si allontana un pochino dai radar, lo fa lui, lo fanno anche altri uomini politici, la sparano un po' grossa. La sparano un po' grossa. Ci mettono quella parola in più che fa esplodere il dibattito per tornare sulle pagine dei giornali e sui social per dividere. È un meccanismo di comunicazione. Quindi se ne parli pure di questo discorso di Salvini, della sostanza, però si tenga presente che è un meccanismo di comunicazione. E questi meccanismi di comunicazione un po' vanno disvelati, perché sennò stiamo sempre a dibattere del nulla. Dunque, salutiamo i nostri ospiti di stamattina. Irene Pivetti, presidente dell'Associazione per l'Amicizia Italia-Cina, già presidente della Camera dei Deputati. Pivetti, Irene, buongiorno e benvenuta nella banda. Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net. Buongiorno. Ciao Roberto, bentornato, piacere di ritrovarti. Allora Irene, si va al voto secondo te? No, secondo me proprio no. Non ne vedo, poi magari, per carità, tutto può essere, ma non mi sembra che ci sia questa determinazione. È un Parlamento questo che, avendo già vissuto due governi di segno opposto con lo stesso Presidente del Consiglio, può permettersi ogni qualsiasi arzigogolo successivo. Devo anche dire la verità, che al di là di questa considerazione, che non, purtroppo non ha a che fare con la qualità della politica ma con l'assoluta disponibilità all'elasticità più estrema, devo però dire, riportando le cose dove devono stare, cioè su un corretto lettura costituzionale, che non è che il voto, almeno nell'attuale Costituzione italiana, sia rimedio alle crisi di governo. Cioè comunque c'è un dovere di stabilità che sta in capo al Capo dello Stato, ma a dire la verità a tutti i membri delle istituzioni, parlamentare e governativa, per cercare di dare stabilità al Paese. Se la Costituzione prevede un'elezione ogni 5 anni, il motivo è che precisamente un Paese, solo in circostanze eccezionali, dovrebbe raccorciare questo tempo. L'Italia l'ha accorciato quasi sempre, ma un conto è un accorciamento di un anno, un conto è fisiologicamente andare al governo ogni poco. Questa scelta non è di per sé vietata, ci sono paesi che lo fanno, San Marino, quando cade il governo rifà le elezioni, per dirne una, sono 27.000 abitanti e se lo possono permettere. È un po' più facile. Ma se vogliamo farlo anche noi, nessuno ce lo vieta, basta scriverlo nella Costituzione. Se non l'abbiamo nella Costituzione, sarà meglio di smetterla di imbrogliare gli italiani strillando a scopo elettorale, prima l'uno poi l'altro, poi l'uno poi l'altro, e dire agli italiani: il punto vero è che la classe politica si deve assumere la responsabilità della guida del Paese, la quale implica una parola che ormai nessuno ha più presente, che è la continuità dell'azione di governo. Sai cos'è? È che quando succede un governo a un altro, anche se è di colore diverso, tiene fede agli impegni presi dal precedente, perché altrimenti il Paese va a rotoli. Questa è una scelta di medio buon senso che quasi tutti i paesi civili fanno e che anche il nostro in realtà fa sulla carta. Allora, se la smettiamo di usare, di azzannarci l'uno all'altro, assolutamente sbeffeggiando l'interesse pubblico, sbeffeggiando, come dire, quella cosa importante che è servire lo Stato, ma ci ricordiamo che la politica è solo uno strumento, non è un fine, e allora forse ci passa la febbre delle elezioni e cominciamo a cercare di ragionare in maniera costruttiva. Questo sembra di fare un discorso da sillabario, però francamente o si ritorna ai fondamentali, o siamo costretti al discorso da bar veramente anche qui nella politica, capito? I fondamentali, niente male. Roberto, che ne pensi? Ma penso che il problema ce l'abbiamo noi, per la verità non ce l'abbiamo solo noi, perché se uno guarda le vicende politiche di due paesi amici dell'Italia come la Spagna e Israele, tanto per fare i primi due esempi che mi vengono in mente, vediamo come negli ultimi anni due democrazie molto simili alla nostra da tanti punti di vista, cioè due paesi del Mediterraneo, hanno conosciuto una successione di elezioni che nel caso spagnolo faticosamente alla fine ha prodotto poche settimane fa, alla fine dello scorso anno, un accordo tra il premier socialista e Podemos. In Israele invece questo accordo per ora non si trova e si torna a votare tra poco. Io credo che nel complesso, innanzitutto per ragioni che Pivetti ricordava poco fa giustamente, la soluzione più probabile è che questa legislatura finisca almeno ancora una volta per produrre un governo diverso dall'attuale, diverso magari più nella sua composizione ministeriale che nella maggioranza che lo sostiene, che potrebbe anche essere sostanzialmente la stessa del governo attuale. Ma io sono convinto che la soluzione più probabile a questa complessa crisi, peraltro non immediata la soluzione, io non credo a un nuovo governo nel giro di pochi giorni o poche settimane, ma credo che a un certo punto arriverà. Questa legislatura è in grado di generare almeno un altro governo. Secondo me succederà un altro governo, quindi questa è la previsione di Roberto Arditti. Bene, vedremo che cosa succederà. Sicuramente poi segnalo agli ascoltatori appunto che Goffredo Bettini sarà nostro ospite alle 8:45 per fare un po' di chiacchiere di politica, anche se alle 8:20 tratteremo un altro argomento. A proposito di dossier concreti, è in arrivo il decreto turismo che viene elaborato in queste ore al Ministero dei Beni Culturali. Una delle norme che fa più discutere è quella che riguarda le restrizioni per Airbnb. Saranno sottoposti, questa l'ipotesi che sta circolando, a tassazione d'impresa quelli che affittano più di 3 appartamenti. È ovviamente una questione che fa discutere, anche se molte restrizioni in altre città ci sono state. Beh, sono le vostre idee, quello che ne pensate su questo tema in generale è... fatecelo sapere come sempre anche con la vostra voce. Un fine settimana intenso. Allora, sardine in piazza, non tante come al solito, in piazza anche i 5 Stelle contro i vitalizi. Su questa manifestazione molto si è ironizzato, no? Un partito che manifesta contro, di fatto contro il governo, ormai non è più una novità questa, però insomma contro il governo del quale fa parte, contro la maggioranza della quale fa parte. Di Maio sulla difesa del ministro della giustizia al centro della scena per il tema della prescrizione, sentiamo. E dopo tanti anni con molti opportunisti che facevano i ministri della giustizia, finalmente abbiamo un ministro della giustizia tutto d'un pezzo e lo dobbiamo difendere. Con lo stesso Bonafede chiamato in causa, che dice: non siamo in piazza contro il governo. Non è una piazza contro il governo, è una bellissima piazza in cui il Movimento 5 Stelle rivendica una delle battaglie che porta avanti da sempre. È una piazza meravigliosa, è un momento in cui incontriamo tanti attivisti, tanti cittadini. Non ho più niente da dire, ma non c'entra niente il potere. Qui il discorso è completamente un altro. Il Movimento 5 Stelle ha portato avanti la battaglia contro i vitalizi e adesso chiaramente vuole rivendicare il proprio diritto a difenderla. Punto. Oh sì, ho detto le sardine, la manifestazione dei 5 Stelle, poi c'è stata anche la manifestazione della Lega per Roma. Si va alla scelta, si sta ipotizzando chi possa essere il candidato sindaco, comunque... Salvini fa discutere per questioni nazionali, quella dell'aborto che vi abbiamo fatto sentire e anche la posizione sull'Europa. Abbiamo letto in rassegna stampa venerdì quest'intervista a Giancarlo Giorgetti, neo responsabile esteri, il quale dice: non si parli di Italexit, di uscita dell'Italia dall'euro, perché non esiste proprio. Ed esprime una posizione tutto sommato europeista. Salvini, l'impressione è un po' quella del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. Salvini, siamo in Europa, ma... Noi siamo dentro per cambiare le regole da dentro. È chiaro che se continueremo a prendere schiaffoni ne trarremo le conseguenze. Non lo so, noi stiamo preparando il futuro programma di governo, che ad esempio prevede una pace fiscale per tutti quelli che hanno delle pendenze con Equitalia. Tutti, famiglie, imprese, società. Facciamo così, chiudiamo le manifestazioni del fine settimana e poi andiamo al traffico. Jasmine Cristallo delle sardine, Salvini ci vorrebbe al mare. Salvini dice che faremmo meglio andare al mare. Beh, può essere una buona idea andare al mare. Può essere una buona idea, l'importante è, insomma, che poi ci facciano ritornare in in riva. Però le piazze sono bellissime, le nostre non sono riempite con i pullman, sono spontanee, sono vere. Quando le piazze sono così bisogna sempre rispettarle. Traffico. Mattino. Oh, poi passiamo ad altro, a partire dal coronavirus. Però Irene, ero proprio curioso di capire, visto anche il tuo passato, no? Ormai abbastanza lontano, tutto sommato, di militanza nella Lega, se questa storia del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, Giorgetti, Salvini, la vedi oppure no? Ma può essere, sicuramente non c'è da pensare che Salvini, che Giorgetti possa rappresentare una linea alternativa a quella del segretario, anche se sarà bene ricordare a tutti che questa Lega non è la stessa Lega di allora, anche giuridicamente, perché Salvini ha seppellito la Lega di Bossi prima di Natale con un Consiglio federale in cui ha sancito la chiusura di quel partito definitiva. Quindi a tutti gli effetti la Lega di Salvini è un altro partito che blandamente recupera alcuni elementi di allora, ma abbandona del tutto il discorso identitario, del tutto il discorso sulla libertà, del tutto il discorso sul federalismo e la riforma dello Stato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in realtà io di questa Lega di oggi so ben poco. Posso dire che osservo dall'esterno che c'è una volontà di non tagliarsi completamente fuori, c'è un'intelligenza da parte di Giorgetti di non tagliarsi completamente fuori dal dibattito europeo, perché il risultato paradossale della prima parte di questa legislatura, dove avevamo un governo, un partito molto forte numericamente, cioè la Lega, addirittura molto forte nel governo e irrilevante in Europa, oggi è mitigato questo paradosso solo dal fatto che questo partito, ancora più forte nei numeri, è totalmente fuori dal governo, ma diventa veramente insostenibile una posizione di questo tipo che ti fa crescere in consensi ipotetici che non vengono mai capitalizzati nelle istituzioni. Allora Giorgetti si sarà fatto questa domanda e un po' marzullianamente si sarà dato una risposta, avrà detto forse è meglio se in Europa cerchiamo di non essere perfettamente isolati, costruendo un ragionamento che ha un senso, che ha assolutamente un senso, perché il discorso di riequilibrare l'Europa a favore dei paesi meridionali, diciamo l'Italia ha tutte le carte per poter sostenere la leadership di un'Europa meridionale completamente cancellata, potremmo dire, dalla cartina politica, se non geografica, dell'Unione Europea. Ecco, questo è sarebbe un serissimo programma politico se fosse perseguito, perché lì veramente vai a discutere più oggi, magari addirittura che in passato, ad esempio le finanze, cioè i soldi che ti servono per governare un paese, e se tu ti tagli fuori sdegnosamente e sbattendo la porta, poi ci spieghi anche un po' come si fa ad andare avanti. Ecco, quindi questo la vedo come una, non saprei dire se quanto, fino a che punto concertata, e certamente non rappresenta la linea politica della Lega, ma questo passaggio di Giorgetti è un passaggio molto intelligente. Molto intelligente. Allora, il coronavirus rapidamente su Di Maio, innanzitutto, la priorità è riportare gli italiani a casa. Voglio dirlo chiaramente a tutti i cittadini italiani che ci ascoltano, a me hanno insegnato che nessuno va lasciato indietro. Noi abbiamo una nave da crociera in Giappone con circa 35 cittadini italiani. Ogni giorno su quella nave da crociera in quarantena si scoprono nuovi casi di coronavirus, e io credo che in questo momento abbiamo di fronte una priorità come Italia, che è quella di riportare i nostri italiani a casa. E niente, ormai è coronavirus, no? Non c'è niente da fare. Allora, Roberto, tripla minaccia. Allora, una minaccia sanitaria, naturalmente, la cui dimensione va ancora esplorata, una minaccia economica e a questo punto anche un problema politico, niente male per carità, è sempre la Cina, quindi un problema politico relativo, per il presidente Xi Jinping, perché, insomma, si apprende che avrebbe saputo tutto dal 7 di gennaio e avendo iniziato a dar comunicazioni, insomma, almeno un paio di settimane più tardi. Dunque, intanto si apprende che i vertici cinesi e quindi anche il presidente erano a conoscenza della reale dimensione del fenomeno con un certo anticipo rispetto al momento in cui l'hanno comunicato, e lo apprendiamo da una fonte cinese, vorrei ricordare. Sì. Questo significa due cose: che da un lato tracce, diciamo così, di democratico dibattito si fanno strada anche all'interno del sistema delle istituzioni cinesi, e non possiamo che salutare con favore tutto questo. In un certo senso qualcuno potrebbe anche interpretare questa notizia che è circolata ieri, quella che tu hai appena ricordato, come, almeno con la logica dei regimi, diciamo, abbastanza autoritari, tra cui la Cina, come una forma di contestazione al vertice, però. Cioè, di solito nei regimi a tasso di democrazia medio-basso o basso, quando emergono notizie sgradite al vertice, è un segno di mancanza di consenso, perché altrimenti non vanno da nessuna parte quelle notizie. Quindi io intravedo in tutto questo, e anche nella esibizione di grande preoccupazione degli ultimi giorni, Xi Jinping ripetutamente fotografato e visto in televisione con la mascherina, addirittura riunioni al massimo livello istituzionale con un tavolo di persone con la mascherina, insomma un atteggiamento cinese inusuale, perché invece di solito le istituzioni cinesi tendono a un messaggio tutto va bene, tutto sotto controllo. Questa volta hanno scelto un registro di comunicazione, torno al discorso che facevi all'inizio, molto molto diverso. Molto diverso. Fammi sentire Irene Pivetti, che appunto è anche presidente dell'Associazione per l'Amicizia Italia-Cina, insomma lavora con la Cina ormai da anni. Irene, che dici? Dico che sono 3 settimane circa che noi stiamo coordinando giorno e notte, letteralmente, l'invio di materiale sanitario in Cina, mascherine, tute protettive, eccetera, e che c'è uno sforzo da parte delle comunità cinesi di tutto il mondo di rifornire la madre patria, potremmo dire, di prodotti, perché fino a oggi, cioè fino a questa mattina, vuol dire qualche ora fa, perché la loro mattina è iniziata 7 ore fa, fino a questa mattina tutte le fabbriche erano chiuse. Da questa mattina si ritorna al lavoro, gli ultimi 10 giorni sono stati spesi con delle direttive che io ho letto alle imprese per prepararli alla prevenzione, hanno l'obbligo di riaprire con un certo set di mascherine a disposizione per ogni dipendente, con il controllo costante della temperatura, con una serie di misure che però la grande domanda è quanto riusciranno ad essere effettivamente eseguite per il paradosso all'interno del quale la Cina si trova, cioè di essere il primo paese produttore al mondo di questo materiale e non averne abbastanza per sé. Non avere aperto le fabbriche pazzesco. Per produrre, se uno ci pensa è pazzesco. Allora, punto vero, cioè insieme a un ragionamento politico che comunque va fatto, perché questo passaggio porta indiscutibilmente, io ho ascoltato con interesse queste osservazioni appena fatte, ma c'è da aggiungere anche il fatto che chiaramente l'emergenza in qualche modo militarizza il paese, cioè porta un irrigidimento poi delle procedure, perché giustificate come se giustificate dal controllo sanitario, ma sicuramente c'è bisogno di tenere l'ordine più che in tempi, diciamo così, di tranquillità. Quindi questo aspetto io lo voglio guardare con, appunto, con attenzione. Per il momento c'è una grande coesione popolare, anche degli imprenditori, che assolutamente sentono questa come una battaglia nazionale da combattere insieme, ma la grande domanda è cosa accadrà al contagio. Perché i numeri che conosciamo ad oggi sono riferiti ad un paese in cui in pratica tutti stavano chiusi in casa, ed è anche per questo che il maggior numero di contagi è in famiglia, perché in pratica uno vive solo con i familiari. Certo. Da questa mattina si comincia a vivere in fabbrica, sia pure gradualmente, e quindi io vorrei capire bene, e penso che l'Occidente farà bene a tenere molto gli occhi aperti su questo punto. E qui io torno su una cosa che ho detto anche nei giorni scorsi, l'Italia è un paese particolarmente in gamba da questo punto di vista. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fin dai primissimi giorni ci ha fatto i complimenti per essere il miglior paese che fa fronte al coronavirus. Allora, questo è il tipo di aiuto che dobbiamo mettere a disposizione della Cina, non fosse altro anche nel nostro stesso interesse. Cioè, è bellissimo che gli regaliamo le mascherine, ma è più importante che noi pensiamo strutturatamente a come offrir loro anche il know-how della gestione dell'emergenza, che non vuol dire ingerire sulle loro vicende come ti organizzo i trasporti o l'ordine pubblico, certamente. Ma quali sono i protocolli più efficaci da attuare sia in per campo contenere, della sanità? Per contenere il tutto. Allora, grazie a Irene Pivetti, presidente dell'Associazione per l'Amicizia Italia-Cina, per essere stata con noi. Alla prossima. E grazie a voi. Grazie a Roberto Arditi, direttore editoriale di formiche.net. Grazie Roberto, alla prossima. Chiudiamo così, va col suggerimento di un ascoltatore. Ci sentiamo dopo il GR con la rassegna stampa. Beh, perché non è Frederick Frankenstein? Non lo è Frederick Frankenstein. Capisco. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Alla vicenda e all'emergenza del coronavirus.